occhio gonfio, non ti ho preso un pugno, ho un buco in memoria, un giorno di gloria, ma è meglio così, non esistono scuse, perché ieri sera, dal mio compleanno, fortuna che sia, solo una volta all'anno vorrei vedermi, capia che c'ha lì, saprò ancora voglia di fare dei danni. Andiamo avanti! Ah, mi hanno portato un braccialetto in silver plate, non so cosa sia, comunque è molto femminile. Potrebbe essere un braccialetto penale di qualche signore molto dotato. Oh, è suo, non senti che è suo.